Il rugby oltre le sbarre, un team di detenuti in campo nella Serie C piemontese. E beh, questo è una storia di sport, ma anche un piccolo sogno, piccolo grande sogno che si realizza grazie alla buona volontà di tante persone, di tanti amanti della palla ovale. Un piccolo grande miracolo che si sta realizzando nel carcere Lo Russo e Cotugno, nel quartiere Vallette di Torino, dove è nata la Drola Rugby, una squadra formata da detenuti e che è riuscita quest'anno a iscriversi al campionato di Serie C, che sta tra l'altro affrontando anche con buoni risultati. Padrino di questa idea è uno che con la palla ovale ha una certa confidenza, perché Walter Rista è stato l'ultimo torinese finora in azzurro. Negli anni 60 ha vestito la maglia azzurra e ora è portabandiera della Drola, ed oggi il nostro ospite qui a bordo campo. Benvenuto Walter. Grazie a voi e buonasera a tutti. Allora Walter, come nasce il progetto della Drola? Perché un conto è fare una meta contro la Francia, che pure non è facilissimo, come tu esperi. No, assolutamente no. Ma ancora più difficile è portare la palla ovale oltre le mura di un carcere. Questa è stata una scommessa che abbiamo voluto fortemente con il direttore del carcere, perché senza il dottor Pietro Buffa non avremmo potuto fare nulla. Lui è una persona che il rugby non l'ha mai, per detta sua, non ha mai giocato a rugby e non sa neanche una regola del rugby, però una regola la sa: è uno sport dove qualcuno deve mettersi a disposizione per gli altri, perché senza gli altri non si fa nulla. Senza sostegno nel rugby come nella vita non si fa niente. Lui è rimasto impressionato quando gli ho detto che questo era un progetto che non aveva visto i Natali da nessuna parte, perché hanno provato a fare un qualche cosa di simile in Francia alla Coppa del Mondo del 2007, però loro hanno fatto una squadra di detenuti che hanno fatto una partita non stop contro la nazionale marocchina e diciamo che fanno delle 2-3 partite all'anno, mentre invece noi facciamo un campionato, come hai detto giustamente tu, di Serie C piemontese. Ecco Walter, quando avete proposto questo progetto non tanto al direttore del carcere, che se ne è dimostrato subito entusiasta, ma proprio ai detenuti, qual è stata la risposta? La prima risposta è che si sono guardati sgomenti, perché questi ragazzi non avevano mai visto neanche una palla ovale. Sapevano che il gioco del rugby era uno sport, però nessuno l'aveva mai praticato. No, nessuno no. Un ragazzo, un marocchino, aveva giocato a livello giovanile nella nazionale marocchina. Diciamo che noi abbiamo fatto tutta una trafila per poter arrivare a proporglielo. Abbiamo fatto una partita dimostrativa all'interno del carcere con due squadre, il CUS Torino e il Settimo Rugby Torino, dove abbiamo fatto vedere che cos'era questo sport. Risultato: con un'ottantina di detenuti che guardavano questa partita, 55-60 hanno chiesto al direttore del carcere di giocare a rugby. Lui mi telefona due giorni dopo e mi dice: Walter, non è mai successa una cosa così. Io qui ho portato tutti gli sport immaginabili possibili, questi più del 50% vuole fare rugby. E allora abbiamo incominciato con i detenuti della comunità Arcobaleno. All'interno del carcere è una struttura adibita al recupero dei tossicodipendenti, però ci siamo subito reso conto che non potevamo proporlo ai tossicodipendenti. Perché? Perché ci sono mille problemi legati alla fisicità di questo sport. E dopo due o tre mesi abbiamo spostato il tiro dai tossicodipendenti ai detenuti veri. Ecco Walter, adesso attualmente quanti sono i detenuti componenti della Drola Rugby? Allora, i componenti sono 24, di cui 19 li abbiamo noi al braccio e 5 sono al polo universitario, perché noi siamo sullo stesso piano del polo universitario. Ci sono 5 ragazzi che fanno l'università all'interno del carcere che sono venuti a giocare da noi, e questo la dice lunga sul fatto di quanto piace questo sport, che poi sembra una banalità, ma il fatto di darsi delle sane, così, dei sani placcaggi secondo le regole sembra una banalità, ma è una cosa fondamentale, perché la vita è fatta di regole. Noi stiamo dando a questi ragazzi una cosa normale, una cosa che per chi non è all'interno del carcere non l'apprezzi. Noi stiamo dando loro della sana normalità.